Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di fisco, parliamo di politica fiscale, parliamo di imposte, parliamo di un problema che tocca da vicino, direttamente, tutti noi. Ne parliamo con Claudio Siciliotti. Buongiorno, dottor Siciliotti. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Claudio Siciliotti è presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consiglio Nazionale che ha tenuto ieri la prima conferenza nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a Roma. Una prima conferenza in cui in primo piano sono state proprio le proposte che i dottori commercialisti stanno facendo per semplificare il fisco, per avvicinare il fisco ai cittadini. In fondo i commercialisti sono i trade union, tra chi le tasse le paga e chi le tasse le riscuote come lo Stato. Sul Sole 24 Ore di oggi Mauro Meazza e Salvatore Padula hanno firmato un articolo di fondo, manifesto per un fisco moderno e ragionevole, in cui si riassumono un po' queste proposte che vanno appunto dalla semplificazione agli aiuti alle imprese, agli incentivi all'innovazione, agli investimenti, quindi un fisco che sia attento alle esigenze dell'economia. È questa la prospettiva in cui si muovono le proposte dei dottori commercialisti. Claudio Siciliotti. Sì, la ringrazio di questa domanda. Sostanzialmente ieri a Roma si sono riuniti una sorta di stati generali della categoria, oltre 1500 persone che non sono tanto rilevanti per il numero in sé o solo per il numero in sé, ma per il fatto che rappresentavano veramente tutti e 142 gli ordini d'Italia. In una giornata contrassegnata da scioperi e da altre difficoltà di spostamento, credo che la volontà pervicace di essere lì testimoniasse non solo la volontà di partecipare a quell'evento, ma soprattutto, come io ho detto, la volontà di partecipare agli eventi del Paese, cioè una categoria che non chiede qualcosa per sé, ma indica o vuol indicare al Paese qualcosa che serve al Paese, una proposta. Abbiamo parlato di fisco, di federalismo, di giustizia e di controlli societari sostanzialmente, sempre nella tematica, nell'ottica dei cittadini, dicendo a noi stessi e a chi ci ascoltava: siamo prima di tutto cittadini, poi siamo professionisti e poi alla fin fine siamo dottori commercialisti e quindi portatori di una competenza tecnica nelle materie che le ho indicato. Ecco, in questa prospettiva avete fatto anche delle proposte appunto tecniche per aiutare il Paese a superare questa crisi, che è anche una crisi di fiducia verso l'economia, una crisi di fiducia anche verso lo Stato. Ecco, nel concreto che cosa proponete? Ma guardi, allora, lei ha messo l'accento sul punto più importante, cioè questa crisi finanziaria, crisi economica, ma alla fin fine è una crisi di fiducia. I sistemi esperti si reggono sulla fiducia. Senza la fiducia non ci sarebbe la moneta, senza la moneta non ci sarebbero gli scambi, senza gli scambi non ci sarebbe il mercato. Tutto questo si regge sulla fiducia che i cittadini, i contribuenti, gli investitori hanno nel sistema e nei saperi esperti che questo sistema in qualche modo è in grado di rappresentare. Per restituire tutto questo, io credo che la fiducia nei confronti del sistema fiscale, perché il rapporto tra cittadino e fisco non è facile, ma passa prima di tutto, a mio giudizio, nella definizione di quella che è la natura del tributo. Forse non è uno strumento di giustizia redistributiva o un mero strumento di politica economica, è anche la controprestazione, è anche e soprattutto la controprestazione di un servizio. Questo è importante, per cui è diciamo una limitazione dei diritti di proprietà e quando questo diventa eccessivo può diventare anche una limitazione arbitraria dei diritti di proprietà. Per far sì che il cittadino non abbia questa percezione, perché non la deve avere, perché il fisco serve a fare a costruire un paese efficiente e moderno, io credo che l'antidoto sia da un lato la semplificazione, perché un fisco semplice emargina l'evasore, un fisco che si presenta con regole semplici e senza adempimenti inutilmente gravosi avvicina il cittadino ai propri doveri e questo è importante, e poi un sistema che sia certo e coerente. cioè dia certezza, e noi dobbiamo lavorare in questa direzione, cioè la semplificazione è il più grande antidoto per la lealtà fiscale dei cittadini, e noi che viviamo in mezzo, come lei ha ricordato, siamo questo anello di congiunzione tra contribuente e istituzioni, tra mondo produttivo e istituzioni, possiamo e dobbiamo gestire un grande ruolo in questa direzione. Se vuole vado avanti. Grazie. Siamo su questo tema. Io volevo solo ricordare agli ascoltatori che possono chiamare all'800 24 00 24. Siamo in linea con Claudio Sicilioti, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Lascerei la linea a Roberto da Salerno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo fare solo una piccola riflessione sul, però si parlava di fisco. Allora, oggi proprio più che mai, in una situazione così delicata, dove oggi per ampliare il reddito delle famiglie, oggi secondo me c'è una vera, si può fare una vera e propria riflessione sul nostro sistema tributario, cioè per la prima volta effettivamente si può pensare di introdurre un sistema di tassazione sul reddito entrata e non sul reddito prodotto, che solo molte volte può essere solo figurativo, e in questo modo si può creare il cosiddetto principio della contrapposizione degli interessi, che è un principio cardine in tutti i sistemi tributari. Se si riuscisse veramente, non so in che modo, ma ad utilizzare effettivamente come in altri paesi la tassazione sul reddito entrata, potrebbe, sul reddito entrata, che poi magari c'è il commercialista che ce lo potrebbe spiegare ancora meglio, si potrebbero creare seri principi di contrapposizione e in teoria si potrebbero allargare il reddito disponibile delle famiglie, che in questi momenti veramente sono completamente prosciugati e asciutti. Grazie mille, grazie della domanda. Ecco, probabilmente si riferisce al fatto di appunto creare il conflitto di interessi, come già esiste per esempio per le spese mediche, che si possono detrarre dal reddito, e quindi se il contribuente ha interesse a chiedere la fattura al medico. È un sistema che si può estendere, lo chiedo a Claudio Sicilioti, presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Credo che la domanda dell'ascoltatore avesse da un lato questa natura, cioè la contrapposizione degli interessi, dall'altro insistesse, lui parlava di entrata, di redditi entrati piuttosto che redditi prodotti, diciamo più correttamente nel nostro linguaggio il principio di cassa e il principio di competenza, di quello che entra effettivamente. Ma io penso che la domanda dell'ascoltatore possa andare ancora più lontano. Forse siamo arrivati al punto che c'è bisogno di una sorta di riconciliazione fiscale e un ripensamento. Io prima ho fatto un flash su questo argomento. Noi dobbiamo veramente partire dalla natura del tributo e dalla logica che ci sta alla base, perché se in qualche modo condividiamo tutti le regole di base, poi riusciamo a creare un sistema che si adegua a questi presupposti. I presupposti non rimangono immutabili nel tempo, il tempo li modifica, e poi devo dire, da noi sono questi principi se ne discute poco e nella pratica sono largamente saccheggiati. Io le faccio qualche esempio. Il nostro è un sistema sulla base della Costituzione basato sulla progressività, e questo sta bene, è scritto così, è normale che sia così. Mi domando allora che senso possa avere per i cittadini, non lo so, pagare tasse universitarie basate sul reddito. Perché? È la controprestazione di un servizio. Io, il mio conto con il fisco l'ho già pagato con l'IRPEF, o lo dovrei avere pagato con l'IRPEF. Quella è impostata la progressività. Così come, che senso hanno cedolari secche su dividendi sottratti viceversa alla progressività, visto che ci dovrebbero entrare? Ecco, allora che forse nelle vie applicative, nel seguire le esigenze di cassa, questa volta dello Stato, si stravolgono principi, e quando si stravolgono principi la gente non li capisce, e quella condivisione di intenti che deve essere alla base, quella comprensione di sistema che deve essere alla base di un adempimento, si smarrisce e incoraggia anche fenomeni di non applicazione delle norme, che noi dobbiamo viceversa fermamente contrastare. Ecco, in un certo senso, dottor Sicilioti, si potrebbe dire che il fisco non ha fiducia di se stesso se impone delle misure aggiuntive proprio per imporre una progressività del prelievo attraverso appunto quello che lei diceva, le tasse universitarie o altri servizi che vengono fatti pagare in maniera aggiuntiva. Se il fisco si limitasse a una tassa giusta, progressiva ovviamente, come dice la Costituzione, che però poi dopo metta tutti i cittadini di fronte fronte alla legge allo stesso modo, forse questo sarebbe già un semplificare le cose. Quindi il fisco dovrebbe avere più fiducia innanzitutto nei propri mezzi. Penso proprio di sì. Quello che io lamento è la mancanza di una progettualità di fondo. Cioè qui si ha la sensazione che le norme siano fatte un pochettino per tappare le esigenze del momento, perché in questo momento serve questo, e se voglio dire quello che serve contrasta con i principi, non importa, perché la risposta è semplicemente che serve e quindi si deve fare così. Ma tutto questo forse risolve le esigenze di cassa momentanee, ma piano piano erode quella fiducia di cui parlavamo prima, che è il collante sul quale si reggono tutti i sistemi sociali. Oggi siamo con Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Stiamo parlando di politica fiscale, di proposte per aiutare il paese, i cittadini e le imprese a superare la crisi. Lascio la parola a Giovanni da Torino. Buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Ma io torno un attimino velocemente, poi farò anche un'altra domanda veramente sintetica sul tema degli interessi contrapposti. Io ritengo che tutti rispondano a questa domanda in maniera molto, come dire, sì è giusta, però poi mai una ricetta, no? Allora veramente sarebbe interessante un ragionamento su costi, vantaggi e benefici di questa operazione, che in tutto il mondo dà risultati contro l'evasione fiscale, perché questo è un problema da, come sapete meglio di me, da 100 miliardi l'anno. L'altro tema è che la tassazione, credo che l'italiano medio ha più buon senso di quello che pensiamo, quindi sa che le tasse vanno pagate e sa che servono a mantenere in piedi un paese. Il tema vero è che sono i presupposti a monte che non reggono più, nel senso che non si sa mai chi veramente è nelle condizioni di dover essere aiutato giustamente dallo Stato e chi fa il furbo. Allora, sui criteri a monte, quindi su un redditometro vero, reale, bisognerebbe ragionare, no? Ci sono signori che girano con macchine da 200, da 100.000 euro e poi però hanno la sovvenzione dei libri scolastici per i figli perché risultano nullatenenti. Questo è un po' il tema, grazie. Ecco, grazie, sì, sicuramente la domanda è, non dico pertinente, ma molto valida, nel senso che indubbiamente la prima fiducia deve nascere dal fatto che di fronte alle tasse pagate poi lo Stato attui una giustizia fiscale e offra ai cittadini dei servizi adeguati. Tornando sul conflitto di interessi, dottor Siciliotti. Ma guardi, io credo che della domanda dell'ascoltatore prenderei il richiamo al redditometro. Noi siamo da sempre stati contro tutte le catastizzazioni dell'economia, cioè tutti i meccanismi che in qualche modo mettevano tutti uguali secondo medie, contro i condoni, contro le pianificazioni fiscali, contro in larga parte anche contro gli studi di settore, nella misura in cui gli studi di settore non sono semplicemente indicativi di una capacità di reddito, ma diventano o finiscono per diventare determinanti di una capacità di reddito invertendo l'onere della prova. Viceversa, non siamo affatto contrari allo strumento del redditometro, perché il redditometro è tarato sul singolo caso. Ed è giusto ed è corretto quello che ha detto l'ascoltatore, che nel momento in cui io vedo il contribuente in Porsche che è nulla tenente, questo è un elemento che tocca quel sentimento di fiducia a cui abbiamo fatto riferimento durante tutta la trasmissione. Quindi il monitoraggio delle manifestazioni di ricchezza spesa può essere un presupposto per determinare la capacità reddituale. Deve esserlo in un paese civile, e su questo strumento noi siamo pronti a fare la nostra parte. Siamo viceversa molto perplessi sulle medie, perché le medie, come il pollo di Trilussa, finiscono per avvantaggiare qualcuno e penalizzare qualchedun altro. Ci vogliono strumenti tarati ad hoc. Per quanto riguarda noi, ripeto, una politica di espansione di strumenti ad personam credo che siano, per quanto invasivi e certe volte, come dire, non del tutto graditi, però sono socialmente utili e moralmente necessari. Ecco, grazie dottor Siciliotti. Ezio da Treviso, buongiorno. Buongiorno a lei, volevo ringraziarvi per avermi richiamato per poter esprimere un quesito anche semplice. Cioè, non capisco, mi rifaccio un secondo all'affermazione del dottor Siciliotti quando giustamente diceva che, diciamo, quello che bisogna ricreare la fiducia del contribuente sul sistema. Io dico, come può un contribuente oggi che si trova di fronte a un bilancio, diciamo, civilistico e uno fiscale, laddove non può dedurre persino l'ICI cioè tasse che ha già pagato dalla sua denuncia dei redditi, come può avere fiducia se in un sistema che è un labirinto fiscale, diciamo, non c'è soprattutto equità, non c'è mi pare la voglia di pensare a un sistema veramente efficiente e molto semplificato, santo Dio. Cioè ci deve essere bisogno di un super esperto per fare una denuncia dei redditi? Ecco, lascio a tutti una risposta per questo. Grazie di tutto. La ringrazio, ma indubbiamente però il fatto che gli stessi dottori commercialisti chiedono una semplificazione mentre avrebbero tutto l'interesse personale a complicare sempre di più il fisco per poter fare dei servizi ai cittadini e alle imprese aiutandoli a districare la giungla delle norme fiscali è certamente un fatto positivo. Ecco, la semplificazione nasce un po' dai fatti e dalle esigenze. Dottor Siciliotti, voi non temete di avere qualche vostro dottore commercialista che forse è un po' scettico sul fatto di dover andare verso la semplificazione? No, io penso proprio di no. Le persone che hanno prospettiva nel futuro e pensano che il lavoro non è soltanto quello che hai oggi, ma soprattutto quello che ti puoi procurare per domani, non lavorano certamente sulle complicazioni. Su quello che ha detto l'ascoltatore, una breve chiosa. Io credo che nel momento in cui noi parliamo di bilancio civilistico e bilancio fiscale, ci rendiamo conto, mi passi l'espressione, che in qualche modo l'aggettivo uccide il sostantivo. Se un bilancio è civilistico o un bilancio è fiscale vuol dire che è fatto con finalità diverse e quindi gli manca l'oggettività di base che dovrebbe esserci, cioè che un bilancio, una rappresentazione veritiera e corretta di quella che è la realtà aziendale. Molte volte andiamo avanti, se per questo sono tutti queste, ha ragione lui quando dice questo, perché ci deve essere un bilancio diverso? Perché il bilancio è il bilancio, è una contrapposizione di costi e ricavi, sono numeri, devono essere uguali per tutti. La semplificazione passa anche attraverso il riavvicinamento di questi momenti. Se no il bilancio fiscale è falso per definizione, perché è fatto per il fisco. È fatto per il fisco, per le ragioni fittizie che vuole il fisco. E allora forse la semplificazione e la ricostruzione di fiducia passa attraverso un bilancio che non abbia più necessari aggettivi. Ci sono un paio di sms al nostro 349-238-6666 e chiedono al dottor Siciliotti che cosa pensa della proposta di detassare le tredicesime. Chiaramente è una proposta che va nella direzione di aiutare i cittadini in un momento di difficoltà. Io però penso anche che noi dobbiamo fare delle riflessioni, se c'è spazio e margine per tutti è una proposta che sicuramente è positiva, però dobbiamo pensare se forse dobbiamo dare la priorità a chi produce o la priorità a chi consuma. Questa è una riflessione, se c'è spazio per tutti vanno aiutate le imprese, gli investimenti e le famiglie. Se ci sono delle priorità forse bisogna iniziare, a mio giudizio, da chi produce e non da chi consuma. Grazie. Andrea da Roma, rapidamente se può. Grazie, sì. Buongiorno, tutto quello che sento dal dottor Siciliotti è molto apprezzabile, non posso però non ricordare che la categoria dei commercialisti purtroppo almeno una volta l'anno quando ascoltiamo i dati delle indagini della Guardia di Finanza oppure come quando vengono pubblicati i redditi su internet non è una categoria che brilla per come dire, completezza di dichiarazioni fiscali. Mi domando se il dottor Siciliotti non ritiene che, come ha fatto Confindustria con un gesto molto coraggioso l'anno scorso, cominciando a espellere dall'associazione le aziende coinate di mafia, anche i commercialisti non dovrebbero fare qualche iniziativa di grande visibilità per assicurare che i propri membri siano campioni di integrità e correttezza fiscale? La domanda è molto chiara, dottor Siciliotti. Ma io veramente credo che siano campioni di correttezza fiscale sul campo. E ovviamente ci possono essere delle situazioni residuali e marginali, ma non mi sento veramente di poter dire che i dottori commercialisti italiani non siano quelli che applicano prima di tutto su se stesso le regole che poi cercano di diffondere nei cittadini. Non ho notizia di questo, noi abbiamo severi codici deontologici ai quali ci atteniamo, sono coerenti con le più brillanti interpretazioni nazionali ed internazionali. Così voglio ricordare all'ascoltatore e voglio ricordare a tutti gli ascoltatori. Noi abbiamo un codice deontologico che per la prima volta abbiamo costruito assieme all'antitrust, all'autorità garante della concorrenza, sedendoci attorno a un tavolo e dicendo scriviamolo assieme. nell'ottica dei cittadini e non nell'ottica dei noi stessi. Questo è lo spirito che anima questa categoria, questo è lo spirito che ha animato l'incontro di ieri, di cui tutti i giornali hanno dato il dovuto risalto. 1500 persone, ripeto, per non chiedere qualcosa per sé, ma per offrire qualcosa al Paese. Credo che questa sia la risposta migliore. Grazie, grazie mille, dottor Sicigliotti. Indubbiamente la trasparenza è un elemento essenziale, l'apertura, ma è certamente anche la necessità poi di non generalizzare dei casi. Ci possono essere in tutti gli ambienti, il problema è quello di fondo, di avere appunto una volontà e una fiducia anche verso le istituzioni, verso ciascuno, che ognuno possa fare il proprio dovere. Io ringrazio Claudio Sicigliotti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Carmelo Larricelli in regia. Quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per domani.